Yo, baller. Not long as how long this rhyme took me. Ejecting styles from my lethal weapon. My pen that rocks from here to Oregon. Here's Morgan. Catch it like a psycho flashback. I love gas and rappers a gun. You wouldn't bust back. I come with shit that's all types of shapes and sounds. And where I lounge is my stomping ground. I give an order to my peeps across the water. So go and snatch up props all around the border. The inspector deck. I smoke on the mic like smoking Joe Frazier. The Hellraiser. Raise a hell with the flavor. Il rapporto tra il fenomeno punitivo e la struttura sociale in cui esso si iscrive richiede che il livello di assistenza delle istituzioni carcerarie sia inferiore a quello della fascia sociale più bassa, perché il lavoro retribuito deve rimanere preferibile alle condizioni di assistenza, chiaramente. What you want here? I want to hear that Wu-Tang again. Gli stati di diritto odierni, europei o nel rule of law anglosassone, si rimanda a soluzioni di tipo liberale. L'aspetto per cui la funzionalità delle carceri e anche le loro riforme vanno verso un inserimento lavorativo per i detenuti che riapre la strada al business imprenditoriale, laddove tornano a mancare quote servili di lavoratori. Condizione che è posta come una modalità obbligata di riscatto. Soluzioni liberali che prevedono il reinserimento sociale e la rieducazione dei detenuti tramite accettazione passiva delle vesti capitalistiche che mantengono dinamiche di sfruttamento e subordinazione. Tanto la condizione delle carceri o l'aumento e la diminuzione dei detenuti, così come l'ostilità o l'apertura dell'apparato giudiziario, seguono variabili economiche, non solo politiche. Trovo difficile negare che vi sia una riaffermazione del vecchio lavoro forzato e per di più ipersorvegliato. È stata una proposta fatta anche per tutti i migranti nei CPR, proprio come se il lavoro forzato fosse una prerogativa dell'integrazione, quando in realtà vediamo che molti svolgono già lavori sotto regimi di sfruttamento, eppure non vengono assolutamente considerati integrati nella cittadinanza italiana. Quindi, oltre ad essere un binomio poco realistico, è usato in maniera ipocrita dalle istituzioni quando fa comodo. Questo concepimento di integrazione non è affatto nuovo, bensì strutturale, dato che il sistema carcerario contemporaneo nasce proprio agli albori della civiltà industriale, oltre che come superamento della pena arbitraria e giustizia di popolo, come strumento e da scopo di inclusione forzata. E come ho trovato riportato anche da Antigone, il carcere fungeva da veicolo coercitivo della riconduzione al lavoro di fabbrica. Anche quella che è stata l'evoluzione del workfare ha preso piede attraverso la repressione delle fasce sociali economicamente più deboli, solo in quanto risultavano come uno scarto dello sviluppo produttivo, non più finanziariamente sostenibile. Le stesse amministrazioni che fino al secondo dopoguerra si erano date una spinta marcatamente progressista iniziarono a classificare come potenzialmente criminali intere fasce della popolazione stanziata nelle periferie e già colpita dall'impossibilità di poter conseguire una posizione stabile in quegli stessi settori industriali che ne avevano promosso l'immigrazione. Concretamente, quello quello che poteva essere un modello di governance all'avanguardia, in quanto negli anni 40 sembrava quasi aver colto l'importanza di alcune rivendicazioni rispetto ad una partecipazione attiva della cittadinanza alla pianificazione urbanistica ed a qualunque programma la coinvolgesse, fu un modello invece respinto da una reazione dell'ala conservatrice insita in quello stesso sistema liberale e i cui calcoli speculativi portarono a dirottare quelli che erano stati i fondi per l'assistenza previdenziale ad una gestione prettamente repressiva e punitiva contro gruppi e soggetti che sopravvivevano alle sperequazioni sociali della metropoli, trattandoli come fossero la causa della loro povertà. Da ciò le stesse istanze democratiche che fino ad allora avevano rappresentato un baluardo di integrazione sociale, come fosse prerogativa dello sviluppo liberale, potevano coerentemente venire declinate in termini di intolleranza nei confronti delle classi meno abbienti e attraverso il recupero della retorica razzista entro i criteri valutati come esplicitamente funzionali al mantenimento dell'ordine pubblico. Erano già ben individuabili gli estremi di un governo della popolazione indigente. Prima di tutto si aprivano le porte al lavoro dequalificato, in un gioco perverso per cui a breve termine il carcere era funzionale alla propaganda politica, in quanto amputava la richiesta lavorativa, quindi in proporzione diminuiva il tasso di disoccupazione, facendo quindi scomparire afroamericani, portoricani e gente dei ghetti, tanto dalle strade quanto nelle statistiche. A lungo termine sfornava milioni di persone inassumibili o poco appetibili per il mercato, però poi reintegrabili nei lavori degradati, da sempre ricoperti più che altro da stranieri. Quindi la minaccia repressiva evitava appunto da un lato le proteste e dall'altro sottoponeva chi viveva nei ghetti ad un adattamento forzoso alle esigenze occupazionali dettate dal commercio globale. Negli anni 90, dichiarata intrapresa la tolleranza zero a New York, le riunioni tra Bill Bratton e lo Stato Maggiore, comandanti del distretto, riassumevano in sé militarismo, aziendalismo, registrazione statistica e ragionamento per target di individui, ovvero neoliberismo applicato al sistema penale. Quando anche in Italia si diffusero le prime campagne per la sicurezza e l'ordine pubblico, secondo la reazione neoliberista americana, il lato più stronzo di tutto ciò è che comunque già le percentuali di crimini gravi o minori non avevano subito la minima diminuzione rispetto alle politiche repressive attuate, anzi erano diminuite già prima e probabilmente proprio per la stanzialità di alcuni quartieri. È invece rimarchevole quanto si registrarono piuttosto abusi, brutalità e cattiva condotta da parte delle forze di polizia. Come si riporta sempre nella buona educazione degli oppressi, nel primo anno di tolleranza zero di Bratton a New York nel 1994, i morti durante un fermo di polizia aumentarono del 53% rispetto all'anno precedente e tra il 92 e il 96 crebbero del 60% i ricorsi contro gli agenti per cattiva condotta, anche in seguito a torture subite. Erano ricorsi presentati più che altro nei tre quarti dei casi da cittadini afroamericani o latini. Now I'm headed to the hotel while I be poking and stroking. joking. Know the haircut, the cow got an open. Hey, daddy, what? Poi c'è la questione dell'assistenza sociale, che superato il fordismo keynesiano si lega strettamente al sistema penale, come dicevo. Quindi un grande incentivo per le strutture carcerarie, oltre a demolire le possibilità reali di emancipazione del sottoproletariato indesiderabile o potenzialmente criminale, si impoveriscono le famiglie delle persone recluse. La politica di Rudolph Giuliani a New York, che non aveva portato certo doni ai suoi cittadini, a discapito dell'omonimia con l'arena di Babbo Natale, era sostenuta appunto dalla mistificazione dei dati statistici propugnata in quegli anni in particolare da Charles Murray, che diffondeva teorie sociologiche razziste basate completamente sul senso di disgusto associato allo stigma della povertà e stravolgendo i tassi di criminalità in rapporto alle misure repressive che stavano venendo attuate. Fu Murray a diffondere il termine dispregiativo di sottoclasse. Come riporta Wolf nella Buona educazione degli oppressi, l'underclass indicava gli uomini che non conservano un posto di lavoro per più di qualche settimana, i poveri a cui non mancano solo i soldi, ma hanno case sporche e tenute male e contribuivano in modo preponderante alla delinquenza giovanile del luogo. Questa sociologia di propaganda voleva essere strumentale all'idea che il welfare fosse fallimentare, quindi a dismettere l'erogazione della previdenza sociale, e riprendeva un po' il concetto elisabettiano, direi, della povertà immeritevole, ma se possibile peggiorandolo, perché la risposta che venne data fu un effettivo aumento delle incarcerazioni. In questo caso escludendo tutta quella parte di cittadinanza che veniva tacciata di contribuire al degrado urbano, considerandolo come una causa in sé. A questo punto farei una retrospettiva su alcuni fattori che storicamente hanno contribuito ad una conservazione borghese del concetto di degrado, che non è certo comparso agli inizi del Novecento, ma anzi ha accompagnato tutta l'evoluzione del sistema previdenziale, la cui strutturazione, al di là dei richiami filantropici e piuttosto che moralisti, è stata fin dall'inizio fondata con l'obiettivo di arginare una recessione economica generalizzata. Così anche nelle successive configurazioni del rapporto tra inclusione ed esclusione, misura previdenziale o penitenziaria, e qualunque ratio o principio vada a delimitare l'estensione di un diritto civile, per quanto le parti possano essere riequilibrate, per quanto si possano riformare i modelli, le categorizzazioni su cui si fondano vengono pur sempre rese funzionali, anche in maniera esplicita, ad un obiettivo di controllo sociale. Per cui tutto ciò che non risulta conveniente legittimare e normativizzare viene ricacciato in ambito giudiziario. Per non scadere a generalizzare troppo, ripercorrerei brevemente alcuni degli episodi salienti rispetto ai quali queste categorie sono state formalizzate e da lì governate, sempre riferendomi al mondo anglosassone, Regno Unito e l'Interland di New York, in particolare visto che è lì che sono sorti alcuni dei paradigmi tutt'oggi vigenti, anche in contesti con background politici e culturali originariamente molto differenti. La prima legge sulla povertà nel Regno Unito è conseguita all'epidemia di peste del 300, proprio per la grandissima crisi subita tanto nelle campagne quanto nei crocevia più mercantili. La funzione correzionale nei confronti di ubriaconi, oziosi e vagabondi iniziò ad essere affrontata con metodi dissuasivi in modo sistemico nel periodo elisabettiano. Venne proprio sancito il recupero degli inoperosi, consegnando loro delle mansioni elementari e molto ripetitive, dei lavori degradanti come lo spaccare le pietre o frantumare ossa per farne fertilizzanti, in cambio di alloggio relegati nelle cosiddette workhouses. Ma vi erano anche prime forme d'assistenza, come gli ospizi, dove risiedevano le persone incapaci di prendersi cura di se stesse. E tutto ciò già attraverso un sistema di tassazione Era un periodo in cui l'ozio aveva implicazioni sia economiche che di esclusione dalla comunità religiosa. La disciplina era indiscutibile. Sotto i 14 anni si veniva picchiati con le aste e se si veniva giudicati refrattari recidivi, si veniva portati davanti al giudice di pace, rischiando l'incarcerazione. Nella legge del 1601 si cercava proprio di distinguere le categorie di indigenti tra incapaci e capaci, meritevoli e immeritevoli. E questo Poor Relief Act costituiva inoltre una prima attribuzione legale della responsabilità dei referenti di workhouses ed ospizi in qualità di sorveglianti. Ai bambini si tentava di dare un'educazione, ma non vi era competenza nemmeno da parte dei tutori e venne perseguito piuttosto l'avviamento al lavoro tramite l'apprendistato, senza ovviamente poterne discutere con bambini e bambine. Vi furono parecchi casi sia d'abbandono da parte dei genitori, sia di indirizzamento alle fabbriche senza che i genitori potessero opporvisi. L'architettura stessa delle case di lavoro attraversò varie fasi, inizialmente a gestione parrocchiale, annesse alla dissoluzione dei monasteri. In era vittoriana poi iniziarono a venir chiamate bastiglie dei poveri, proprio perché il rinnovo architettonico le faceva assomigliare a strutture a panopticon secondo la linea di Bentham. Un disegno radiale con quattro bracci, perimetro murario rettangolare e un blocco unico d'ingresso. Era un layout che doveva servire proprio alla separazione fisica dei, diciamo, internati in base alle malattie che avevano contratto o alle mansioni a cui venivano destinati. Ma aumentando la domanda di manodopera nella città per la crescente industrializzazione nei due secoli successivi, aumentò il divario tra chi poteva permettersi le recinzioni, la privatizzazione delle terre o dei macchinari di produzione, e l'assistenza pubblica iniziò a venire versata soltanto rispetto a una soglia stabilita di cosiddetto sollievo con la legge di Spinhamland. Per cui non importava quanto duramente avessero lavorato e effettivamente fossero stati sfruttati, ma soltanto che raggiungessero quella soglia. Come cropper, lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown. Il sistema di Spinhamland comportava che i salari venissero ridotti a un livello di sussistenza di base. The cropper lads for me, the gallant lads for me. Molti furono gli episodi di ribellione. All'evoluzione delle enclosures, quindi della privatizzazione e dei processi industriali, e allo stesso tempo contro il trattamento disciplinare della povertà, che comportava un ulteriore abuso sulle vite di queste persone, nonostante in linea assistenziale. Così per esempio gli Swing Riots, che presero il nome dall'arnese con cui si batteva il grano, metaforicamente chiamato Capitano Swing, sollevazioni di ispirazione luddista in corso nel 1830, attraverso la distruzione di tre beatrici contro l'espropriazione della forza lavoro agricola e delle terre comuni nell'Inghilterra meridionale. We've always much to do our will with hatchet, pike and gun. The cropper lads for the cropper lads me, the gallant lads for me. I ribelli bruciarono e distrussero anche le case di lavoro e le stalle delle decime associate alla loro oppressione. A dire il vero, mutilarono pure le mucche, perché purtroppo non c'era quella considerazione degli animali che per fortuna una certa sensibilità ha risvegliato, per quanto abbiamo appena assistito all'uccisione di masse di animali d'allevamento, per l'aberrazione di considerarle come merci scadute nei momenti di crisi economica. Quando le workhouses vennero dismesse, L'ambito più infermieristico assistenziale fu convertito alla gestione ospedaliera municipale. Fino al 48, in cui l'Inghilterra non si diede una legge assistenziale nazionale, continuarono a venire usate come rifugio per senza tetto adulti e bambini. Le classificazioni dei diversi livelli di povertà hanno contribuito a creare stigmatizzazioni che poi si sono trascinate fino ai giorni nostri. Tant'è che il modello delle workhouses è stato quello che ha ispirato l'instaurazione del sistema carcerario statunitense verso la fine del Settecento. Mentre l'aspetto più virtuoso di quelle, che era la presa in carico di persone con invalidità, è stato nelle riforme contemporanee demandato all'amministrazione più strettamente sanitaria, quindi all'ospedalizzazione. Per quanto riguarda il sistema previdenziale, tornerei su New York, che penso sia veramente rappresentativo di come il divario economico di classe, il suo mascheramento etnico, l'intervento governativo, sia in tenui tentativi di colmarlo per non far crollare l'economia, sia nei suoi scopi repressivi, sono tutti elementi fondamentalmente legati all'andamento dello sviluppo urbanistico ed industriale. The industrial technological system may survive or it may break down. If it survives, it may eventually achieve a low level of physical and psychological suffering, but only after passing through a long and very painful period of adjustment, and only at the cost of permanently reducing human beings and many other living organisms to engineered products and mere cogs in the social machine. Furthermore, if the system survives, the consequences will be inevitable. There's no way of reforming or modifying the system so as to prevent it and deprive people of dignity and autonomy. If the system breaks down, the consequences will still be very painful, but the bigger the system grows, the more disastrous the results of its breakdown will be. If it's a breakdown, it can best break down sooner rather than later! Inizialmente le celle non fungevano che come luoghi di punizione corporale e in attesa di processo, sia per il presupposto che il pestaggio fosse una tecnica più efficace nel prevenire e rimproverare il crimine, sia perché l'America coloniale necessitava di ampie masse di manodopera, per cui non poteva trattenere potenziali lavoratori a lungo. Con l'aumento dell'immigrazione dall'Europa, la percezione del crimine iniziò a modificarsi. Si cristallizzò l'associazione tra l'essere straniero e l'essere fuori legge. Il crimine sembrava poi qualcosa di contagioso, connaturato ad ambienti urbani inquinati e giudicati peccaminosi. Dalle punizioni corporali non si otteneva più lo stesso rigore, perché vi erano sempre più soggetti criminali transitori e nei centri urbani sempre maggiori possibilità di corruzione. Fu la detenzione a lungo termine ad apparire la più adeguata a questi cambiamenti. Naturalmente, la punizione corporale, a pretesto razziale soprattutto, non è mai stata realmente sospesa. Le persone schiavizzate erano ancora torturate nei modi più orribili, fino anche pubblicamente. Con l'aumento dei tassi di incarcerazione, si registrò, per esempio, nel giro di un anno un sovraffollamento 5 volte superiore. Vennero aperti numerosi centri penitenziari e si operò per una riforma che li regolamentasse. Rispetto alla Pennsylvania, che stabiliva un isolamento totale e una rieducazione attraverso il lavoro artigianale, fu la prigione statale di Auburn, a New York, a dettare le linee per la gran parte del sistema penitenziario statunitense. L'approccio della prigione di Auburn, che aprì nel 1818 e formalizzò il proprio procedimento correzionale nel 1833, univa principi dell'espiazione puritana a quelli dell'espropriazione della forza lavoro di dimensione industriale, per cui i detenuti potevano avere contatti, come in una catena di montaggio, però con l'obbligo di assoluto silenzio. Questo secondo indirizzamento carcerario rispetto all'isolamento totale ebbe un'estensione preponderante anche perché si rivelò non solo più conveniente, ma addirittura redditizio per i governi. Nonostante Nonostante la costruzione in quegli anni di numerose carceri, il problema del sovraffollamento si ripropose periodicamente e non è ancora stato risolto. Come sostiene Foucault, la storia della prigione non obbedisce a una cronologia. La prigione, il suo fallimento e il suo aspetto riformato non costituiscono tre fasi successive. È come se questi elementi venissero redistribuiti in continuazione. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Con tutto ciò che viene riformato, succede un'ulteriore speculazione e una rinnovata cancrena della metodologia portata a sistema. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Di realtà, vuole potersi esprimere secondo, non so, le proprie necessità.